L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata della vigilia di Natale, nella quale vi portiamo qualche buona notizia in dono. Parleremo di piattaforme offshore e di una bella novità per quel che riguarda la loro sicurezza e di omologazione di auto. Ne avevamo già parlato recentemente, lo so, ma ci sono buone notizie per l'appunto sul tema dopo la riunione del Comitato Tecnico per i Veicoli a Motore del 20 dicembre, che ha approvato il terzo pacchetto RDE per la misurazione delle emissioni degli inquinanti delle auto in condizioni reali di guida, non in laboratorio. Una revisione della normativa sostenuta dalla Commissione europea dopo lo scandalo Dieselgate. Ebbene, contro la proposta del terzo pacchetto RDE, solo tre paesi hanno votato contro, sono stati Ungheria, Repubblica Ceca, Romania, si è astenuta la Slovacchia e l'Italia, che invece veniva data per incerta, infine ha detto sì. Noi abbiamo riconvocato quindi Anna Gerometta, presidente dell'Associazione Cittadini per l'Aria, che ha fatto una battaglia per questo sì dell'Italia in Europa, per aiutarci a capire cosa significa aver approvato questo terzo pacchetto RDE. È il terzo pacchetto che regolamenta il sistema che dovrebbe appunto a breve entrare in vigore per fare dei test real drive, cioè effettivamente su strada sostanzialmente in sede di omologazione, quindi non più non si testano più le automobili semplicemente in laboratorio, ma le si testa con questo PEMS, che è un dispositivo portatile che si attacca dietro al tubo di scappamento delle automobili e che misura le emissioni delle automobili durante un andamento normale su strada. Questo terzo pacchetto riguardava il numero di particelle che escono da i tubi di scappamento delle automobili e prevalentemente delle automobili a benzina. C'è una crescente preoccupazione per il livello di emissioni di particolato delle automobili a benzina a iniezione diretta, che sono le più moderne, e quindi la Commissione ha ipotizzato appunto di fare un livello di conformità rispetto al limite stabilito dalla legge che effettivamente consenta di verificare che le automobili rispettino quel limite. Che cos'è un livello di conformità? Conformità sostanzialmente è la previsione, diciamo, di un piccolo scarto fra il diciamo la quota 1 di limite emissivo che viene stabilito dalla legge e quello che può essere, diciamo, concesso come scarto per prevedere la possibilità che lo strumento abbia delle piccole, diciamo, discrasie rispetto all'emissione reale, o meglio, siccome effettivamente questo test verrà fatto poi in Europa a tutto tondo con macchine diverse, si considera che in pratica sia ammissibile uno scarto dell'1,5%, quindi del 50%, nel livello delle emissioni quando si misura con questo PEMS, perché naturalmente queste sono macchine molto sensibili che potrebbero avere dei piccoli scarti, e quindi si è stabilito il 20 di dicembre di autorizzare questo piccolo scarto, ma che è uno scarto molto molto molto inferiore rispetto a quello che chiedevano le case fabbricanti delle automobili, che chiedevano sostanzialmente di anche lì triplicare lo scarto fra il livello normativo e le emissioni reali. Quindi diciamo che la decisione del 20 di dicembre è stata una decisione molto molto molto positiva dal punto di vista della sostanza, perché in pratica quindi avremo effettivamente la possibilità dal 2018 di fare di sapere che le macchine che effettivamente entrano in strada hanno su strada un certo numero di emissioni, un certo livello di emissioni di particolato, e quindi sarà sostanzialmente obbligatorio adottare un piccolo filtro che ridurrà su queste automobili il numero delle particelle che verranno emesse, e quindi insomma diciamo che siamo molto soddisfatti, siamo anche molto soddisfatti perché con non pochi sforzi siamo effettivamente, crediamo di essere riusciti a convincere l'Italia a votare in favore, cosa che ha fatto nonostante il fatto che fino praticamente a 10 giorni fa fosse quasi certo che avrebbero votato contro questa, diciamo, livello di ambizione di questo pacchetto. Quindi siamo, diciamo, del resto che nei pacchetti precedenti non erano stati, no? I pacchetti precedenti la posizione italiana era stata piuttosto rigida, diciamo, ecco, non certo ambiziosa. Molto negativa, perché insomma si sembra quasi che in passato il governo italiano considerasse il fatto di accedere alle richieste delle case fabbricanti delle automobili come un compito istituzionale. In realtà, a nostro giudizio, è negativo per due fattori. Uno, perché naturalmente il fatto di fare delle normative o comunque ostacolare l'adozione di normative che riducono le emissioni delle automobili e degli autoveicoli, evidentemente è qualcosa che va contro la salute dei cittadini, che poi sono quelli, diciamo, è un valore primario e che quindi dovrebbe essere protetto dai governi in modo assolutamente prioritario, certo. Perché è veramente miope immaginare che un settore come quello auto non venga stimolato, al contrario, a cambiare binario, a investire in un cambiamento serio che consenta effettivamente anche di potersi vendere nel mondo, dato che questo problema dell'inquinamento atmosferico delle città che sono completamente asfissiate dal traffico è un problema globale, e quindi noi plaudiamo veramente alla posizione che ha avuto il governo in questa situazione. Ci auguriamo veramente che questo stesso atteggiamento venga tenuto nella prossima, diciamo, cruciale negoziazione, che è quella sul nuovo sistema di omologazione europeo. Quindi un omologatore unico europeo, no? Questa è l'ambizione adesso? Il tema qui è effettivamente che ci sia un'autorità centrale che monitora, che controlla e che ci sia la possibilità che questa autorità unica europea supervisioni l'attività degli organi nazionali, che i dati, diciamo, dei test di omologazione vengano resi effettivamente trasparenti e quindi accessibili a livello europeo, che ci possa essere un controllo reciproco, perché alla fine noi dobbiamo capire che le automobili che vengono omologate in un qualunque paese europeo poi possono venire nelle nostre città e viceversa. Quindi è giusto che non ci sia più questa situazione, che tutto sommato ha determinato un livello di opacità non da poco, in cui effettivamente quello che emerge dai test di omologazione è sostanzialmente non accessibile. Si vuole anche fare in modo che effettivamente terzi come laboratori di analisi o società o associazioni dei consumatori possano accedere a questi test, perché questo effettivamente consentirebbe di avere l'indicazione dei criteri utilizzati e, diciamo, avere poter effettivamente fare una verifica sui test. Quindi diciamo che, appunto, poi c'è la creazione di un forum che faccia un controllo periodico su come le autorità di omologazione applicano le leggi, e che ci sia anche la possibilità di comminare sanzioni quando si vede che un'autorità di omologazione, per esempio, non usa le norme esistenti e non le implementa nel modo corretto. Poi, naturalmente, l'altra cosa che in questo sistema bisognerà fare in modo che venga attuato è quello del controllo post-produzione, cioè non esiste, non è più sufficiente immaginare che il semplice test durante l'omologazione sia sufficiente, bisogna prevedere che gli stati effettivamente facciano una vera e propria sorveglianza post-produzione dei veicoli che vengono messi su strada. Molto bene, grazie. È stato un buon regalo di Natale, no? Diciamo così. Essere utili e quindi di avere la percezione che alla fine, quando i cittadini, come è successo in questo caso, perché abbiamo stimolato attraverso una mail a partecipare alla consultazione che la Commissione europea aveva fatto, e quindi per una volta non sono state solo le case, sono mossi per chiedere che effettivamente venisse data priorità alla qualità dell'aria e alla salute. Davvero, grazie molte e complimenti. Grazie quindi ad Anna Gerometta, che ancora una volta ci ha tracciato un po' il quadro dell'attuale situazione e di quello che ci aspetta in futuro, sempre su questi temi. Però abbiamo voluto contattare e dare spazio anche a Paolo Gandolfi, parlamentare, tra l'altro anche consigliere del ministro delle Infrastrutture del Rio per quel che riguarda la mobilità sostenibile, che anche lui si è speso per questo sì dell'Italia. Ecco cosa ci ha raccontato. Semplice, nel momento in cui diciamo, abbiamo l'emergenza di inquinamento atmosferico, cosa che si presenta ogni anno, ma insomma che non per questo non deve diventare routine, e poi diciamo con anche le spalle la questione del Dieselgate, quindi diciamo tutta una serie di incertezze legate ai controlli sui veicoli, sui fattori emissivi dei veicoli, è chiaro che c'era la necessità di indirizzare il ruolo, la presenza, che in questo caso è tecnica, del governo all'interno della commissione che doveva valutare le proposte per i protocolli di controllo sui veicoli, insomma, di orientare questa decisione verso un'attenzione molto maggiore alla qualità dell'aria, quindi diciamo a sostenere a pieno titolo la proposta della Commissione europea, anche consapevoli che c'erano alcuni paesi europei che invece tiravano un po' indietro. Insomma, e quindi diciamo la proposta che io adesso non è che possa parlare a nome del Ministero, ma insomma, siccome collaboro con il Ministero su questi temi, la proposta che abbiamo fatto è appunto quella di collocarci a pieno titolo tra coloro che vogliono innovazioni e maggiori garanzie sui controlli per i veicoli. E controlli realistici, perché poi dopo saranno, no, veicoli che verranno testati in strada e non più in laboratorio, quindi in condizioni decisamente Sì, il diverse. nodo in realtà è poi tutto quello, perché è chiaro che lo sappiamo, insomma, che i veicoli hanno dei comportamenti che possono essere omogenei, ma possono anche essere invece molto diversi da quelli che magari erano previsti o che erano stati misurati tecnicamente in sedi particolari. Su strada è tutto un altro mondo, quindi insomma c'era questa necessità che veniva avanti dal nuovo regolamento di affrontare i controlli su strada, e niente, l'abbiamo certamente sostenuta. Ci fermiamo qui su questo tema. Parleremo tra pochissimo di piattaforme offshore e del nuovo indicatore che speriamo ci aiuterà a capire cosa succede là dove si estraggono o movimentano petrolio e gas in Italia. Tra poco. Il 25 gennaio un gruppo scelto di ascoltatori di Melog avrà l'opportunità di visitare la mostra Homo Sapiens al MUDEC di Milano assieme a me. Per essere selezionati e far parte del gruppo degli eletti sarà necessario inviare due foto di se stessi alla mailbox melog@radio24.it. La prima foto dovrà essere del proprio passato e l'altra del presente. Gli ascoltatori dovranno indicare qual è stata la loro evoluzione o involuzione nel periodo che passa tra le due foto. Darwin ci ha insegnato che non sopravvive il più forte, ma il più capace ad adattarsi al suo ambiente. Ma noi quanto e come ci siamo adattati? 25 gennaio, ore 20:30 al MUDEC, via Tortona 56 Milano. Tutte le info su radio24.it. L'altro pianeta. Di nuovo buon pomeriggio da Laura Bettini. Come dicevamo, come promesso, parliamo di sicurezza degli e sugli impianti offshore di idrocarburi, perché è stato recentemente presentato il primo strumento per la misurazione, la valutazione e il confronto di tutte le azioni a tutela della sicurezza dei lavoratori, degli impianti e dell'ambiente realizzate per le operazioni offshore in Italia. Un indicatore la cui realizzazione è stata promossa e coordinata dal Ministero dello Sviluppo Economico presso la Direzione Generale per la Sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche, una direzione che è guidata da Franco Terlizzese, e quindi a lui abbiamo chiesto di spiegarci di che si tratta. La nostra attività ha le radici nelle attività del Corpo delle Miniere, quindi nasce addirittura nell'Ottocento e si è occupata dello sviluppo delle attività minerarie prima, petrolifere e degli altri settori del sottosuolo poi nel corso degli anni e dei decenni, con risultati complessivamente positivi sotto il profilo della sicurezza. È stato sempre quello il filo conduttore delle attività. L'anno scorso, in ragione di una nuova normativa europea sulla sicurezza in mare, che noi abbiamo esteso anche in terraferma, il Ministero ha creato una nuova direzione generale, che è quella che dirigo io in questo momento, che si occupa soltanto di sicurezza. Sicurezza intesa come sicurezza delle persone, dei luoghi di lavoro, sicurezza anche ambientale. E non si occupa più quindi dello sviluppo delle attività petrolifere, minerarie e quant'altro, ma solo degli aspetti di sicurezza di queste. Questo ci permette di quelle quindi che già esistono, ecco, fondamentalmente? Sì, quelle che già esistono e anche quelle che esisteranno. Se ci saranno nuove ricerche, nuove attività, noi saremo chiamati a vigilare sulla sicurezza, a monitorare la sicurezza attraverso una serie di sistemi che man mano stanno evolvendo sempre più verso il tecnologico, e a fornire poi alle direzioni generali di questo Ministero gli elementi di giudizio, di valore, per stabilire se andare avanti o no su quelle cose. Quindi per fare tutto questo lavoro siete partiti poi anche con il coinvolgimento di altre realtà oltre quelle già presenti nel Ministero, quindi parliamo di università, di corpi dello Stato, enti di ricerca, insomma un numero che arriva a 12 mi pare. Esatto, esatto, perché il legislatore, mentre da un lato ha voluto isolare le competenze nostre in termini di sicurezza, dandoci un mandato preciso, evitandoci conflitti di interesse, cioè di essere un soggetto che contemporaneamente deve promuovere e sviluppare le attività e le deve controllare. Oggi noi le dobbiamo solo controllare, dobbiamo fare in modo che possibilmente non facciano danno. Nel contempo ha messo anche a disposizione una quota di risorse economiche che derivano direttamente dalle entrate petrolifere, quindi una parte delle royalties è destinata a noi e al Ministero dell'Ambiente per sviluppare proprio queste attività di controllo. Quindi noi abbiamo iniziato in primis con chi in mare fa controlli, cioè capitanerie di porto e marina militare, con loro abbiamo costruito un sistema di controlli e misure coinvolgendo gran parte degli enti di ricerca pubblici e alcune eccellenze di università e politecnici che ci forniscono contributi specifici su temi particolari e generalmente molto di avanguardia. In parte alcuni di questi enti lavorano direttamente in pool. Una delle novità, direi, di questo network è che ha un progetto finalizzato comune, quindi non è ricerca pura ma ricerca applicata alla individuazione di parametri complessi, per esempio parametri di subsidenza, parametri relativi alle condizioni dello stato meteomarino o alle emissioni in atmosfera, oppure analisi di serie di dati statistici complessi, e questi dati vengono spesso studiati ed elaborati insieme, così come le tecnologie per ricavarli, perché in alcuni casi non è semplice, ad esempio andare a esaminare quali sono i metalli o gli inquinanti presenti nell'intorno delle piattaforme, nel fondo marino, e capire se questi derivano dall'attività delle piattaforme o derivano da correnti sottomarine o da altri fattori, è materia di discussione scientifica. Quindi noi isoliamo questi temi, coinvolgiamo alcuni enti che tra loro fanno un progetto di ricerca integrato e poi man mano seguiamo i risultati e li riceviamo e li inglobiamo in questo complesso sistema di indicatore globale di sicurezza, ognuno in funzione della sua importanza e del suo peso. È un progetto che è nato da circa 2 anni, quindi è tuttora in una fase molto giovane, è nella fase del prototipo, che è un algoritmo complesso che mette insieme per ora soltanto 3 di questi elementi di indicazione, ma stiamo lavorando agli altri con l'obiettivo nell'arco del prossimo anno di arrivare a 10 diversi indicatori, sommando gran parte di quelli che sono i dati che ci arrivano dal lavoro che facciamo insieme con tutti questi enti. Dunque, io ho letto che i primi 3 appunto di cui lei parlava, indicatori di performance, riguardano gli infortuni sul lavoro, l'attività aeronavale di pattugliamento, leggo, sopralluoghi ispettivi sulle infrastrutture. Sì. Questi diciamo sono son quelli su cui avete lavorato fin da subito. Qualche esempio di quelli che arriveranno? Qualche esempio di quelli che arriveranno sono i dati di emissioni in atmosfera, dati di emissioni allo stato liquido delle piattaforme, acque di strato, esami sul materiale solido presenti sul fondo marino e ricerche. Vabbè, insomma, abbiamo capito, sì. Comunque, ecco, il tipo è quello. Noi come utenti, diciamo, non saprei come dire, come cittadini, ecco, perché poi dopo questo è come li potremmo, in che forma potremmo vederli questi dati? Allora, sul nostro sito sono presentati già oggi una serie di dati, di famiglie di dati che riguardano la sicurezza, gli infortuni e è descritto il metodo di lavoro di questo network, sono descritte in termini generali le attività di ogni singolo ente che fa parte del network e poi è sommariamente descritto anche l'indicatore. Dopo questo primo momento di sintesi, questo prototipo, noi stiamo caricando sul sito i dati che hanno portato a ricavare l'indicatore, perché l'indicatore è un elemento di sintesi che dà una sensazione immediata attraverso un cruscotto di controllo di come sta andando quest'anno rispetto all'anno precedente, come andrà il prossimo anno. Poi però per andare a fare delle valutazioni, delle analisi e anche per noi per andare a programmare gli investimenti dove migliorare, bisogna andare a scavare dentro. Questi dati noi li stiamo mettendo e li metteremo tutti a disposizione degli interessati. Stiamo mettendo anche a disposizione degli interessati uno spazio di discussione in cui dare un giudizio sintetico, quello abbastanza classico, insomma, dei pallini di gradimento, e un'area in cui le persone che hanno voglia di approfondire, che magari hanno delle idee migliorative, possono darci un contributo e dialogare con noi. Ci dovrebbe permettere di allargare in qualche modo virtualmente questo network, questo al lato interno. Poi, così come lo mettiamo a disposizione dei cittadini, degli utenti, degli interessati, stiamo aprendo un confronto con Bruxelles, perché non siamo solo noi interessati a conoscere in dettaglio lo stato di sicurezza delle attività offshore, ma lo sono tutti i paesi che ce le hanno queste attività e ci sono diversi paesi europei, finché c'è la Gran Bretagna e certamente l'Olanda, la Danimarca, ma anche diversi paesi mediterranei. Quindi avere un indicatore per un paese significa potersi confrontare con gli altri paesi e possibilmente riuscire a fare degli indicatori che hanno una matrice comune in modo che siano confrontabili tra loro. Quindi c'è un progetto anche di ampliamento, ecco. E quindi questo è un indicatore che serve al cittadino, ma direi serve anche agli studiosi, a chi comunque è del settore, cioè può essere un riferimento per tanti. È un riferimento per tanti. Questi enti a loro volta sviluppano tecnologie legate a queste tematiche. Per esempio il Politecnico di Torino sta sviluppando delle attrezzature subacquee nuove, originali, per riuscire a fornirci dati nuovi, maggiori rispetto a quelli che abbiamo ora. Quindi c'è sviluppo di hardware, sviluppo di software e la volontà di mettere a disposizione il network in tutta la sua capacità e competenza, sia per diffondere informazioni, ma anche per guidare l'amministrazione nelle sue scelte future. A proposito di amministrazioni, alla vostra presentazione erano presenti le regioni, erano presenti anche gruppi ambientalisti. Direi che anche questo è un bel risultato, no? Aver portato tutti allo stesso tavolo a confrontarsi davanti a dei dati che vengono da enti diversi, quindi forse superare finalmente quella, no? Quella dialettica continua del io l'ho detto io, lo dici tu e così via, no? Collaborare. Sì, abbiamo cominciato un po' tardi, dovevamo cominciare tanti anni fa, ma è meglio tardi, meglio tardi che mai. Certo. E il risultato è che c'è stato un confronto di idee molto costruttivo e che prosegue, perché con alcuni di loro questo lavoro lo abbiamo fatto anche in questi giorni, in questa settimana. Io sono molto soddisfatto della partecipazione e abbiamo visto il riscontro da regioni molto interessate poi a queste attività idrocarburi, che hanno colto in questo modello di controllo e di gestione un'opportunità anche per le attività in terraferma. Ti riferisci alle con la Basilicata quella... abbiamo già concordato che a gennaio ci sediamo intorno a un tavolo tecnico e proviamo a sviluppare un indicatore specifico per quelle attività regionali della regione più interessata e quindi più impattata dalle attività onshore di produzione di olio. Certo, poi c'è stata già anche quella, vedo sempre sul vostro sito, firmata con l'Emilia Romagna, quindi insomma ci sono dei buoni frutti, ecco, di questa collaborazione, di questo dialogo che si è riaperto in maniera costruttiva. Sì, è molto laborioso, è molto impegnativo, però dà soddisfazioni, dà risultati. Io credo che anche le aziende in questo senso si apriranno più facilmente al dialogo, ma soprattutto le persone che poi devono, che sono presenti quando si fanno le conferenze di servizi, che sono coinvolte dai comuni, dai sindaci nel dare il loro parere, potranno avere una piattaforma di informazione più adatta a dare un giudizio non solo di istinto, ma di ragione. Beh, speriamo, perché insomma tanti conflitti anche potrebbero essere risolti più facilmente, ecco. E... è vero, i francesi prima di noi hanno cominciato un meccanismo di dialogo pubblico della public acceptance, che da noi ancora non ha avuto una regolamentazione di legge chiara. Che poi non vuol dire dare sempre ragione, no? alla controparte, cioè non è che per forza dovete vincere voi. Può andare diversamente. Non tutto si può fare e non è detto che tutti i territori siano idonei a sviluppare determinate attività. Però credo, da quello che anche le aziende dicono, che sia molto più interessante sapere a priori che da qualche parte non si può far niente, si risparmiano moltissimi soldi, piuttosto che avere un accanimento per anni per realizzare un'opera che è incompatibile. Allora, fornire un quadro informativo adeguato sulla sicurezza e preoccuparsi per tempo di analizzare se un certo territorio può sopportare un carico di attività superiore a un certo limite, serve a tutti, serve ai cittadini, ma serve anche alle aziende per programmare i loro investimenti. Senz'altro, senz'altro. Allora, noi nel 2017 vi aspettiamo con gli altri parametri, così potremo imparare, insomma, a confrontarci con questo nuovo strumento, questo indicatore che tanta fatica è costato, ma che è arrivato alla fine, no? Quindi è arrivato. È il regalo di Natale, diciamo. Sì, va bene, siamo a disposizione per informarvi sugli sviluppi man mano che li faremo. Grazie e auguri e a risentirci. Auguri a voi, arrivederci. Ringraziamo Franco Terlizzese, direttore generale del MISE. Abbiamo parlato appunto con lui di questo nuovo strumento che dall'anno prossimo potremo finalmente imparare a maneggiare. Ci fermiamo qui, vi auguriamo un buon Natale e vi diamo appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini un saluto e a risentirci. Festeggiare, regalare, illuminare, cantare, gioire, incontrare, ritrovare, brindare, mangiare, abbracciare, baciare. Radio 24, libera la voglia di Natale.